541. Pollo al diavolo. Si chiama così perché si dovrebbe condire con pepe forte di Cayenna e servire con una salsa molto piccante, così che a chi lo mangia, nel sentirsi accendere la bocca, verrebbe la tentazione di mandare al diavolo il pollo e chi l'ha cucinato. Io indicherò il modo seguente, che è più semplice e più da cristiano. Prendete un galletto o un pollastro giovane, legategli il collo e le zampe e apertolo tutto sul davanti, schiacciatelo più che potete. Lavatelo ed asciugatelo bene con un canovaccio, poi mettetelo in gratella e quando comincia a rosolare voltatelo, ungetelo col burro sciolto oppure con olio mediante un pennello e conditelo con sale e pepe. Quando avrà cominciato a prender colore la parte opposta, voltatelo e trattatelo nella stessa maniera. E continuando ad ungerlo e condirlo a sufficienza, tenetelo sul fuoco finché sia cotto. Il pepe di Cayenna si vende sotto forma di una polvere rossa che viene dall'Inghilterra in boccette di vetro.